Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi gli animi sembrano un po' più sereni, ma nell'ultima settimana sui mercati se ne sono viste di tutti i colori in un copione che si ripete ormai da mesi. Giovedì scorso facciamo un micro riassunto: dopo la Banca Centrale Europea le borse sono andate a picco, venerdì sono rimbalzati in maniera molto più ampia del calo del giorno precedente, in un recupero clamoroso per il quale in verità ancora ci si interroga, forse era stato ancora più incomprensibile il crollo del giorno prima. Comunque la settimana si è chiusa positivamente per Piazza Affari, il bilancio è attivo per circa 4 punti percentuali, ma da inizio anno i conti sono ancora in rosso perché Milano perde circa il 10%. Certo, dopo il maxi rialzo di venerdì, per non fare illudere nessuno, ci ha pensato ancora una volta Standard & Poor's a gelare il clima riducendo il giudizio su 15 banche italiane, portandone addirittura 3 a livello spazzatura. Questi un po' i temi degli ultimissimi giorni. Però quello che ci chiediamo è quale scenario ci dobbiamo aspettare per questa settimana, con gli investitori pochi in ferie quest'anno e molti ai terminali, proiettati verso il Ferragosto. È arduo a lanciarsi in previsioni, ma in una fase come quella attuale ci proviamo in ogni caso. La volatilità la fa ancora da padrone, l'incertezza regna sovrana e ad ogni notizia i mercati si muovono incontrollabili, sia in positivo che in negativo. In più queste giornate sono contrassegnate anche dalla diffusione delle trimestrali, gli operatori fanno fatica a prendere spunto dai conti delle singole società e preferiscono accodarsi al gregge, uno dei fenomeni tra l'altro più studiati della finanza comportamentale. Comunque tutto sommato i bilanci non sono proprio da buttare, almeno per gli operatori e i gestori che guardano solo ed esclusivamente a questi elementi. C'è un'altra cosa da ricordare per quello che riguarda Piazza Affari: le vendite allo scoperto sono ancora congelate, lo saranno fino al 14 settembre, un provvedimento dell'autorità di controllo del mercato che ha in questa maniera tentato di arginare la componente speculativa sulle borse, che si ripercuote inevitabilmente anche sugli spread obbligazionari. E questo probabilmente, questo blocco delle vendite allo scoperto contiene anche movimenti della borsa, per fortuna, limitando però anche molti investitori. Allora, in tutto questo c'è anche lo scenario internazionale da tenere sotto stretta osservazione. Si è conclusa la missione della Troica, formata da Banca Centrale Europea, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale in Grecia, una missione che si è conclusa positivamente perché la Troica ha riconosciuto gli enormi sforzi fatti dal governo greco, anche se ha detto comunque non dobbiamo abbassare la guardia. E forse anche su questa prospettiva oggi il mercato ha iniziato la settimana di buon umore, consolidando e ampliando anzi i rialzi molto forti di venerdì scorso. Allora, ribadisco, facciamo un punto della situazione, commentiamo le vicende delle ultime giornate anche per cercare di capire se quel rally di venerdì scorso è sostenibile o meno, o abbiamo dietro l'angolo un'altra mannaia. Corrado Caironi, investment strategist di ricercafinanza.it, bentornato, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Grazie. Tra i tanti che ancora non sì. abbassano la guardia, le ferie sono ancora rimandate come le mie, e saluto e ringrazio Antonio Tognoli, che invece, lo ammetto candidamente, gli abbiamo rotto le scatole nella sua prima giornata di vacanza, ma naturalmente proprio a dimostrazione del fatto che la guardia quest'anno non va abbassata, ha accettato di essere nostro ospite, vicepresidente di Integra Sim. Tognoli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Dovevo dirlo che è in vacanza oppure devo stare zitta? Non c'è nessun problema. Allora, chiaramente ci farebbe piacere questa mattina ancora una volta, come sempre, l'intervento degli ascoltatori, perché siamo in diretta regolarmente. 800 24 00 24 è il numero che potete utilizzare appunto per prenotare le vostre chiamate, e poi avete anche le altre modalità, gli sms al 349 238 6666. Potete andare anche ad animare la discussione, e lo fate sempre in maniera molto efficace, devo dire, sul nostro profilo Facebook salvadanaio-radio24. Potete anche scriverci sul nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio-radio24.it. stavo porgendo una bottiglia d'acqua a Corrado Caironi. Allora, un'occhiata anche alla giornata di stamattina, come stanno partendo le cose. Dicevo bene, abbiamo un rialzo di mezzo punto a Parigi e a Francoforte, Londra più 0,11, Milano più 0,8, Milano continua ad essere la protagonista europea degli scambi, tra l'altro nonostante, come dicevo, questa nuova scure che si è abbattuta sui mercati ad opera di Standard & Poor's, appunto il mercato adesso ha preso a non tenere più tanto in considerazione gli interventi delle agenzie di rating, pur essendo arrivati anche tre junk, tre spazzature appunto per tre banche italiane. Poi vi dico anche quale sono, ma in ogni caso appunto oggi bene Milano. Di Assorin è il miglior titolo della seduta, segna più 6,20%, Mediaset più 5%. Di Assorin è assolutamente un titolo che si disinteressa totalmente delle vicende della Grecia, della Spagna, dello spread, amplia i suoi business, recentemente l'ha fatto in India e su questo sta guardando appunto il mercato e puntando il mercato. Intesa più 2,75%, Fiat più 2,54%, Parmalat più 2,42%, Autogrill più 2,31%, più 2 punti per A2A, Finmeccanica, Mediolanum. E tra l'altro Mediolanum e Intesa sono stati venerdì scorso i due titoli bancari che hanno registrato i rialzi in assoluto più eccezionali e oggi continuano ad andare avanti, cosa che non fa invece Unicredit, che oggi perde il 2,29%. Tra l'altro Intesa e Unicredit non sono state colpite da Standard & Poor's, eppure oggi Unicredit scende di oltre 2 punti. Buzzi meno 1, Banco Popolare meno 0,05, sono questi gli unici tre titoli negativi in questo momento a Milano. Euro su dollaro a 1,23,56, lo spread fra BTP e Bund è sui 464 punti base. Corrado Cairo, la sorpresa, quello che è successo tra giovedì e venerdì in un mercato che nella prima lettura, questo è il punto sul quale si sono concentrate quasi tutte le analisi delle ultime giornate da parte di analisti, commentatori, economisti, il mercato prima disorientato dalla Banca Centrale Europea che non ha comunicato nessun bazooka sui titoli di Stato, appunto come sì, racconta anche qualche collega sul Sole 24 Ore di questi giorni, e poi venerdì ci ha ripensato completamente e ha deciso questo mercato di essere più positivo nei confronti delle iniziative future, non immediate, della Banca Centrale Europea. Ma perché è così disorientato il mercato? Ma penso che in realtà nel discorso di diciamo di Draghi dopo l'annuncio dei tassi assolutamente invariati si era pensato a un qualcosa di immediato, una soluzione che poteva essere presa nel giro di pochi giorni, soprattutto sulla scorta di quello che era stato detto a Londra. In realtà poi così non è stato, sono mancati dei dettagli importanti che anche durante la conferenza stampa sono stati sollecitati da parte dei giornalisti, e questo si è visto subito nel giro di pochi minuti, il crollo del mercato. Infatti anche questo aspetto è stato molto enfatizzato da molti commentatori, il fatto che Draghi non parlasse apertamente ma per tirar fuori delle dichiarazioni che servissero ai mercati è dovuto essere stimolato dai giornalisti. Vero, sempre colpa vero. Nostra. Colpa non lo so, però sicuramente è stato un punto determinante perché ha scoperto un po' le carte di quello che poteva essere invece il gioco che aveva in mente Draghi da portare avanti. Il giorno successivo, secondo me, o comunque nel post conferenza, si è riletto con attenzione un po' quello che era stato scritto invece nel comunicato e soprattutto alcune precisazioni che sono state date dal governatore hanno dato invece l'idea che dietro c'era un grosso lavoro che sta per essere portato avanti e che comunque sui 17 c'era solamente un voto contrario per quanto riguarda questo, quindi c'è un programma che ormai è assodato, quindi il mercato ha reagito positivamente. In realtà saranno proprio nei prossimi giorni capire sostanzialmente come si muoverà effettivamente la banca centrale, e i dettagli sono oggi ancora tutti da scoprire. C'è un fattore secondo me però nuovo: banca centrale e in particolare nelle parole di Draghi c'è una convinzione forte che punto uno, c'è il concetto di irreversibilità del progetto euro, questo è fondamentale. Il punto due è sicuramente che si sta accelerando sul progetto ESM, che appunto è il fondo meccanismo di stabilità permanente che deve essere deliberato, e sarà la Corte Costituzionale ovviamente tedesca a dare l'ok il 12 di settembre, ad essere il punto chiave per quanto riguarda gli interventi sul mercato. Quindi la Banca Centrale è pronta e farà tutto il possibile. Rimane nelle parole di Draghi e rimane, secondo me, nei fatti che vedremo nel mese di settembre. Antonio Tognoli, vengo a lei per cominciare a focalizzare l'attenzione fondamentalmente sull'Italia, poi ritorneremo sugli scenari internazionali. I dubbi sull'Italia, anche questo è stato oggetto in questi giorni di grande analisi, perché altri commentatori hanno detto che il mercato venerdì si è calmato e poi ha ripreso a crescere in maniera vistosissima quando il premier spagnolo Rajoy ha detto sì, effettivamente lo ha fatto lui per la prima volta. Prima aveva lasciato che queste dichiarazioni, più o meno tra l'altro indecise, fossero rilasciate solo dai suoi ministri. Ha detto sì, probabilmente noi avremo bisogno dello scudo antispread. Secondo lei, per permettere al mercato di proseguire su questa strada di rialzi molto vistosi, anche non vorrei spaventare nessuno, ma anche l'Italia c'è bisogno che venga allo scoperto in maniera così netta, visto che molti lo auspicano, qualcuno dice l'Italia non avrà assolutamente bisogno di fare ricorso a questo meccanismo. Qual è la sua sensazione, anche a giudicare dall'andamento appunto delle banche, che non hanno i problemi dell'immobiliare spagnolo, però insomma anche per quello che riguarda noi il loro andamento in borsa è strettamente correlato allo spread, e questo l'abbiamo visto chiaramente fra giovedì e venerdì. Ma io credo che per il momento l'Italia non abbia sicuramente bisogno di nessun tipo di manovra, diciamo, rispetto a quella che ha chiesto la Spagna. Sicuramente lo spread, credo che gli analisti, ma anche in parte Monti, abbiano in mente proprio questo, è per il medio-lungo periodo, nel senso che chiaramente le nostre imprese, la nostra economia non possono permettersi di lavorare con un tasso che è 3, 4, 5 punti più alto rispetto a quello dei tedeschi, delle imprese tedesche che sono nostre competitors, perché evidentemente questo mina alla radice la nostra competitività. Allora, se dobbiamo far crescere il PIL per abbassare il rapporto, e quindi la famosa crescita della quale si parla, sicuramente questa non si può fare nel medio e lungo periodo con questi livelli di spread. Ecco, io credo che quando si parla di spread, soprattutto al di là del fatto momentaneo, ma voglio dire la duration del nostro debito fa sì che comunque ci si possa permettere per un periodo non lungo, ma spread di questo ammontare, nel medio e lungo periodo l'economia non può sopportarlo, perché le nostre imprese non possono a questo punto diventare competitive e quindi attuare quella crescita auspicata da tutti. Senta, che giudizio si è dato invece delle trimestrali che sono state diffuse nelle ultime giornate? Qual è complessivamente, secondo il suo giudizio, lo stato di salute delle società milanesi quotate, italiane quotate, tenendo magari da parte per ora il settore bancario? Ma molto a macchia di leopardo, nel senso che non c'è un settore che in modo corale va bene e uno che in modo corale va male. Ci sono imprese che vanno bene o male a seconda di dove esportano, e ovviamente mi spiego, nel senso che le imprese che hanno per tempo attuato progetti di investimento in paesi emergenti, che ovviamente continuano a emergere, quindi Cina, Far East, Russia e quant'altro, sono quelle che mediamente stanno realizzando profitti tendenzialmente in crescita. Le altre, che sono concentrate prevalentemente sul core Europe o peggio sull'Italia, a parte aziende molto molto particolari, questo tipo di aziende registrano fatturati e soprattutto redditività in calo. Ovviamente qui è un po' la scelta del management, tra l'altro quando si parla poi di piccole e medie imprese è una delle cose molto particolari e importanti alla quale l'analista deve fare riferimento, cioè il top management e i manager che cosa hanno fatto in passato a seconda della situazione economica che gli si è presentata davanti. Quello bravo ha tentato di esportare in paesi emergenti, quello meno bravo evidentemente è rimasto arroccato sul core Europe, e di questo bisogna esserne consci nel momento in cui si fa l'investimento. Il caso di Diasorin, peraltro, che ho citato poco fa, è proprio un esempio di questo ragionamento che stava facendo. Lei vuole farmelo un commento, Caironi, sulle delle aziende italiane quotate, il loro stato di salute, il fatto che siano molto spesso ostaggio invece di dinamiche che non hanno nulla a che fare con il business individuale, ma il mercato quando bastona, bastona tutti. Più che sulle aziende singole, direi sì, settori, infatti, settori e MIB, e quindi mercato italiano, dove abbiamo sulla parte azionaria, proprio alla fine di luglio abbiamo alzato un pochino il peso sul portafoglio internazionale. Questo è molto interessante, quindi dando l'idea che comunque i livelli di valutazione erano arrivati veramente in basso. E sul discorso dei settori, ho l'impressione che proprio i settori che comunque verranno premiati, li abbiamo visto un po' oggi, sono ancora i settori più diciamo di economia reale, quindi la parte finanziaria rimane ancora molto legata al problema dello spread e quindi al problema finanziario, quello l'abbiamo visto, e soprattutto siamo davanti ancora, lo dicevamo prima, a un problema di rating, e il problema di rating sta diventando ancora pesante su tutti, non solo le banche italiane ma anche le altre banche legate alla periferia europea, quindi molta attenzione, ci sono ancora ancora molti fondi che devono essere accantonati in funzione del fatto che comunque la situazione economica è molto difficile, eccetera eccetera. Questo è un po' l'elemento, però da un punto di vista proprio di asset allocation stiamo rivedendo la posizione proprio anche nell'eurozona in generale, che era rimasta sottopesata per molti mesi. Alla fine di luglio abbiamo alzato un pochino il peso, abbassando l'America, e questo è andato molto significativo, importante, anche perché dopo esserci stata una rivalutazione del dollaro, e anche abbiamo... Bisognerà pure cominciare a rendergli il favore, visto che loro ci stanno abbandonando oltre un anno. Ecco. Mi sembra un fattore che oggi può essere effettivamente di novità all'interno dell'asset allocation. Anche perché loro, lo ribadiamo, insomma, sicuramente sono molto più flessibili, hanno, come dire, una modalità di sopravvivenza rispetto alle crisi molto più forti, però non è che se la passino molto bene, sono straindebitati, se non ci fossero i cinesi a sostenere anche i corsi dei loro treasury, vorrei vedere come potrebbero stare. La disoccupazione è ancora molto alta ed è la grande preoccupazione di Obama in quest'anno di campagna elettorale. Il dato ultimo ha dato un pochino più di tranquillità, anche dando un po' di fiato alla Fed, quindi non facendogli pressione, però insomma il tema là è anche la campagna elettorale e il mercato, come spesso raccontiamo da questi microfoni, in frangenti temporali di questo tipo appunto tende ad essere un po' più stabile, bocce ferme. Allora, alcuni ascoltatori ci stanno chiedendo quali sono, visto che prima li ho citati. Allora faccio fare la domanda a Giuseppe dalla provincia di Bari, visto che vi stavo accontentando, Giuseppe, la faccio fare direttamente a lei la domanda. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono un investitore privato e quindi la mia domanda è questa. Purtroppo forse la mia è una nota stonata oggi in questa giornata dove si sta parlando di recuperi sui mercati. Lo facciamo senso tanto, nel senso con molta cautela, Giuseppe, perché qua non si sa mai quello che succede. Dunque, io stamattina ho aperto delle posizioni short sull'Italia, sull'America e sul DAX, perché al di là di tutto quello che si stava dicendo, io sono convinto che l'economia e i mercati alla fine si basano su un elemento, che è l'elemento del PIL, del prodotto interno lordo, e ritengo che fino a che le aziende non incominciano a produrre ricchezza, fino a che i consumi non salgono, io vedo qui, anche perché sono anche un industriale, vedo che aziende chiudono, la gente è senza soldi e alla fine sono convinto la disoccupazione è altissima, e fino a che la Germania continuerà ancora a dettare legge, perché sappiamo perfettamente che i tedeschi non regalano niente, io sono convinto che quello di venerdì è stata una euforia così, che magari ci può stare, ma sono convinto che fra qualche giorno si ricomincerà di nuovo a parlare di problemi, di debiti alti e sicuramente i mercati scenderanno. Comunque io ho aperto short stamattina e volevo chiedere se appunto poteva essere una posizione valida sui mercati. Antonio Tognoli, vicepresidente di Integra Sim, visto che sta sul mercato tutti i giorni, probabilmente sarà in grado con grande chiarezza di spiegarci, tanto per reintrodurre la domanda fatta dall'ascoltatore nella parte precedente della nostra trasmissione, poi commenteremo anche tutto il resto. Che cosa vuol dire aprire delle posizioni short sui mercati, su qualunque tipo di mercato? vuol dire fondamentalmente vendere senza avere la proprietà un titolo o l'indice, supponiamo il FTSE MIB a 14.000, lo vendo oggi sperando che nel momento in cui devo comprare sia più basso, ovviamente lucro la differenza. Questo posso farlo per l'indice, un titolo, una commodities, per qualsiasi cosa. Ecco, operazione che al momento non si può fare per le società quotate a Milano. Ecco, quindi infatti l'ascoltatore ci raccontava che per la verità lo sta facendo su altri mercati. Esatto, solo sull'indice. Si riconosce nella riflessione fatta dall'ascoltatore che comunque dice i miei interventi, le mie posizioni sui mercati guardano fondamentalmente alle prospettive di crescita di questi, perché e quindi questo chiaramente magari porta fondamentalmente anche molti investitori a continuare a stare lontani dal nostro paese. Standard & Poor's, pur ritenendo ancora un po' discutibili questi interventi fatti sempre in determinati momenti, dice la recessione sarà ancora molto più lunga e prolungata di quanto non avessimo già detto qualche tempo fa. E comunque quello che ci ha suggerito l'ascoltatore è quello che dovrebbe essere l'atteggiamento, credo, corretto di un investitore sui mercati, sul mercato azionario in particolar modo, o no, Tognoli? Nel senso che ovviamente uno guarda le prospettive macroeconomiche, le prospettive delle società e quant'altro, e questo dovrebbe essere il faro che guida nell'investimento di un titolo azionario, di un titolo obbligazionario. Ovviamente però la borsa e soprattutto in questo momento le obbligazioni sono guidate da elementi esogeni in parte alla borsa stessa, di fatto lo sono sempre storicamente, ma in questo periodo ha maggior ragione. Quali sono questi elementi esogeni? Sono per esempio le dichiarazioni di Draghi, che non è che immediatamente siano seguite da un fatto economico positivo o negativo, ma sono delle dichiarazioni, quindi la borsa è guidata anche e soprattutto da aspettative economiche, quindi è difficile capire se in questo momento la borsa ha scontato tutto il negativo o no, o ha scontato le notizie positive o no. Ovviamente l'investimento corto, come diceva l'ascoltatore, o lungo, io compro in attesa di vendere in un momento successivo, devo tener conto del solito connubio rischio-rendimento. Sono disposto a rischiare in questo momento di vendere, supponiamo il FTSE MIB a 14, e quanto sono confidente di comprarlo a 13,5, a 13,6? Ovviamente è un rischio rendimento, devo essere conscio di poter perdere tutto, oppure se vado lungo di guadagnare. La cosa fondamentale è che devo essere conscio e capire qual è il mio rischio rendimento. 800240024 il numero verde per le vostre domande. Adesso vado avevamo ben due Francesco da Bari stamattina, praticamente collegati contemporaneamente, però prima di sentire il secondo Francesco volevo sentire anche un ragionamento da parte di Corrado Caironi, più appassionato alla macroeconomia che non alla micro, o comunque alla finanza spicciola, quella che in realtà, mi si passi il termine, è quella che domina nelle giornate. So che lei insomma si appassiona un po' di più a visioni di lungo periodo. Quanto ancora il nostro paese sarà in questa condizione recessiva? Il tema, secondo me, che ha sollevato in un portafoglio come lo vediamo noi di medio termine, chiaramente è un tema importante, però dal punto di vista anche diciamo strategico, quello che abbiamo visto nelle ultime settimane è un riposizionamento importante in termini politici, che è stato sempre il punto debole della visione anche di asset allocation dagli ultimi due anni. In realtà siamo rimasti in balia proprio di questi problemi politici che sono intervenuti. Oggi io ho l'impressione che, rimanendo al tema italiano, perché dicevamo prima che abbiamo alzato leggermente la quota di azionario italiano, riferito a due elementi estremamente importanti. Il primo, passi avanti fatti sulla stabilità e sostenibilità del debito pubblico italiano. Questo è un lavoro che il Premier Monti sta portando avanti ormai da mesi e che comincia ad avere una sua configurazione. Non è un caso che anche dal punto di vista fiscale ne abbiamo viste le conseguenze proprio in questi mesi. Il secondo elemento è il dato di fatto sulla crescita economica, che quest'anno nella nostra visione, almeno nella mia visione, potrebbe essere addirittura sotto il 2,5%, quindi ancora più alto rispetto alle attese, però con una visione che se ci fosse appunto una capacità del governo di ampliare questa logica di crescita e di sviluppo, come l'abbiamo visto nell'approvazione anche dell'ultimo piano di sviluppo del governo, potrebbe effettivamente avere una visione del 2013 di ripartenza anche della crescita italiana. Questo è un dato estremamente importante. Il terzo elemento lo solleva adesso il tema del finanziamento del debito, che sono gli spread, e che è la conseguenza di questo. Quindi una volta che si possa capire che c'è un debito sostenibile e che dall'altra parte c'è un ritorno di crescita, io ho l'impressione che effettivamente anche i tassi di finanziamento rientreranno. In questa logica, se il percorso è questo e diciamo tutto convergerà verso questo obiettivo, quindi banca centrale, politica UE e dall'altra parte ovviamente il governo italiano, io ho l'impressione che ci possa essere invece una visione positiva. Sto parlando sempre di medio termine. Certo, no, tra l'altro stavo riprendendo un articolo del Sole 24 Ore di questo fine settimana, esattamente di domenica, di ieri, firmato da Isabella Bufacchi, che fa un po' un quadro di tutti quegli appuntamenti obbligazionari del mercato. Per quello che riguarda questo mese, c'è la prossima asta italiana il 13 agosto, un pacchetto di bot a 12 mesi per 7-8 miliardi di euro, e poi le prossime aste sono rimandate a fine mese, sempre a scadenze piuttosto brevi. Il primo appuntamento con il medio lungo termine è il 30 agosto, quando il Tesoro italiano metterà sul mercato BTP a 5-10 anni per un importo compreso fra i 5 e gli 8 miliardi. Vedremo come andrà. Insomma, sì, Caironi voleva intervenire. Sto dicendo che la strategia oggi è quella di emettere assolutamente a breve termine. Sì. Cioè, questo deve essere un punto logico, perché sappiamo che la banca centrale comunque in questa fase aiuta tutto il sistema bancario ad andare avanti. E qui non dobbiamo assolutamente sbagliare niente. Poi è chiaro che il lavoro politico dovrà essere molto intenso nel mese di settembre, nel momento in cui anche l'ISM comincerà a prendere vita. Io sono sull'ISM su pende questo. Però il giudizio dell'alta corte tedesca, e un ascoltatore settembre. Lo chiede: se il giudice di Karlsruhe, che non so come si pronuncia, adesso mi arriveranno 2000 messaggi su una pronuncia sbagliata, bocciasse il meccanismo di stabilità permanente, sarebbe un parere vincolante o si andrebbe avanti, chiede questo ascoltatore? È chiaro che oggi c'è già un sistema che permette un fondo che permette di stabilizzare il mercato, che è il fondo EFSF, cioè il fondo finanziario di stabilità e facilities viene definito, e questo dovrebbe essere ricapitalizzato, non partendo più l'ISM chiaramente. Dovremo far cavalcare, se non abbiamo il cavallo dovremo far cavalcare ancora un po' l'asino, però a questo punto viene messo di nuovo in discussione il discorso dei poteri che avrà questo fondo. Allora, Francesco, io le faccio fare la domanda. Per la verità non sono le persone che ho questa mattina le persone giuste per parlare di questo argomento, anche se credo che un'opinione ce l'abbiano. Però proviamo. Francesco, buongiorno. Sempre ritornando ai tre titoli bancari italiani che sono stati bocciati in maniera molto pesante, non tanto rimandati agli esami, ma insomma i loro titoli sono spazzatura. Francesco, buongiorno. Intanto buongiorno a tutti, e poi di Radio 24, agli ascoltatori e ai gentili ospiti. Grazie. La domanda semplicissima. Volendo un po' saltare dalla visione speculativa o di investimenti o macroeconomica, io andrei più sull'economia reale, e cioè alla luce del declassamento di questi tre titoli bancari, quali sono i risvolti sull'economia reale, guardando proprio alla fattispecie del correntista di questi tre istituti? E nella fattispecie, ancora più in concreto, quanto tempo passa dal declassamento a titolo spazzatura all'eventuale chiusura, chiusura dei battenti di un istituto bancario come ma non è detto che è ci sia ma Francesco non è assolutamente detto che si apra uno scenario di questo tipo, non è automatico e non è assolutamente detto, quindi su questo vorrei immediatamente tranquillizzare i nostri ascoltatori. Poi ogni banca ha i suoi problemi, sulla BPM ne abbiamo raccontati tanti anche nei mesi passati, però mi scusi, la lascio concludere e poi andiamo agli ospiti. No, era questo, la domanda è terminata e già mi ha rassicurato. Certo. Parzialmente volevo sentire appunto un'opinione sua e dei suoi gentili ospiti. Grazie molte. Allora, tra l'altro volevo anche anticipare agli ascoltatori che ricordate il famigerato prestito Convertendo della Banca Popolare di Milano. La banca ha sottoscritto un accordo di conciliazione con Adiconsum, una delle più grandi associazioni dei consumatori in Italia, stabilendo dei criteri per la restituzione di quanto detenevano appunto le persone che hanno sottoscritto in passato questo prodotto finanziario, chiamiamolo così. Ci ritorneremo prossimamente su questo argomento, direi anche i primi di settembre, proprio per non continuare sul terreno dei temi finanziari complicatissimi che magari a metà agosto non sono proprio adatti per i nostri ascoltatori. Quindi vi racconteremo tutto di questa conciliazione. Per gli interessati naturalmente ci possono scrivere a salvadanaio@radio24 e magari daremo qualche dettaglio in più, poi torneremo a trattare questo argomento più avanti. Comunque, Tognoli, vengo da lei. Allora, se una agenzia di rating declassa a spazzatura i titoli di una banca, come è successo a queste tre appunto italiane, allora diciamo che il ragionamento dell'ascoltatore, visto quello che diciamo sempre anche dei titoli del debito sovrano, se vengono declassati a spazzatura è chiaro che ci sono tanti problemi, no, sui mercati. Per le banche valgono le stesse considerazioni? Beh, per le banche diventa più caro il costo del funding, cioè di cercare denaro. Evidentemente se vanno sull'interbancario per cercare denaro da investire, lo trovano sicuramente, o non lo trovano, o lo trovano a tassi più elevati, e se vanno sul mercato devono emettere a tassi più elevati. Anche qui ovviamente è un campanello quindi d'allarme. Se dovessero emettere delle obbligazioni devono riconoscere ai sottoscrittori un tasso di rendimento più alto rispetto magari alla media di mercato. Esattamente. Ma anche qui di fatto vuol dire poco, perché bisogna vedere a che tassi le impiegano. Se io raccolgo al 10%, che è tantissimo perché sono un titolo spazzatura, ma impiego al 15%, beh, evidentemente ho comunque 5 punti all'attivo. Ho fatto il discorso per estremizzare, no? Chiaramente. Sì, certo, per titolo esemplificativo. Esatto, quindi sì. È vero, non è una cosa sana, non è una bella cosa, ma evidentemente raccolgo a tassi più elevati, bisogna vedere che tassi impiego. Non c'entra assolutamente nulla la liquidazione coatta amministrativa, quindi insomma il fallimento di una banca, col declassamento, e i risparmiatori assolutamente possono stare tranquilli perché comunque c'è il fondo tutela a garanzia dei rapporti. Già ultimamente è dovuto anche intervenire per Banca Network Investimenti, quindi se meno lo disturbiamo meglio è, perché pure loro non è che ci abbiano il pozzo senza fondo dei quattrini per salvare. Però insomma adesso io credo che queste due banche, da questo punto di vista, dal punto di vista del rapporto con il retail, queste tre siano assolutamente tranquille. Detto questo, tra l'altro, un'altra raccomandazione che io faccio: se poi uno, anche alla luce delle notizie che legge sui giornali, non si sente tranquillo, siccome ringraziando il cielo ce ne abbiamo anche fin troppe di banche nel nostro paese, che se ne scelga magari una più che ritiene sia più tranquilla, no? Se vuole essere e rimanere indenne da queste preoccupazioni appunto che imperversano sui giornali. Ma questa è una raccomandazione di puro buonsenso, non riguarda queste tre banche, riguarda il nostro comportamento con i nostri intermediari finanziari, che possono essere appunto considerazioni che valgono a prescindere. Molti ascoltatori, adesso vediamo se riusciamo appunto anche a sentirne qualcuno. Ah no, c'è questa notizia che volevo commentare stamattina, poi andiamo ai cambi, come ci stanno chiedendo alcuni ascoltatori. Il gruppo anglo-olandese Shell, quindi uno, la conchiglia, un grande colosso, facciamo molto spesso rifornimento a questi distributori, quindi un grande colosso del settore petrolifero, ha fatto sapere che vuole ritirare la liquidità depositata nelle banche europee a causa dei rischi connessi alla crisi del debito sovrano dell'Eurozona. Beh, se ne è accorta presto, tra l'altro. Lo ha dichiarato senza mezzi termini al Financial Times il direttore finanziario di questa azienda, Simon Henry, spiegando che noi non abbiamo più la stessa propensione al rischio di credito in Europa. Il manager ha spiegato che il gigante petrolifero preferisce allocare i suoi 15 miliardi di liquidità su conti statunitensi o in alternativa trasformarli in titoli di Stato Treasury americani. Caironi, che ne pensa? Ma è una, dunque non è una novità sulle multinazionali. Tra le altre cose, negli ultimi 8-9 mesi ne abbiamo viste tante che hanno perché non sono drenato, proprio spicciolini quelli sì, che muovono, hanno drenato molta liquidità dai conti europei verso i conti americani, eccetera. No, e questo è il cosiddetto flight to quality, cioè idealmente quando un'azienda sostanzialmente ha dei depositi in giro per il mondo cerca con la tesoreria di sfruttare le opportunità sia di valuta che di tassi. Chissà perché perché non va in Germania? In una situazione in cui in Europa probabilmente già avevano sfruttato l'idea del fatto che comunque i titoli tedeschi erano saliti moltissimo, i tassi ormai si sono azzerati, a questo punto secondo me hanno ritenuto opportuno riportare in patria questa liquidità. Ma ritornerà, quindi le aziende strategicamente si muovono opportunisticamente nel mercato e quindi le vediamo travasare da un paese all'altro questa liquidità. Tognoli, per chi invece continua ad essere molto fedele alla borsa italiana, magari è un cassettista, quindi guarda l'investimento sui titoli del nostro paese in un'ottica anche di avere questa cedola periodica, tra l'altro Telecom ha confermato per esempio settimana scorsa la sua politica di remunerazione agli azionisti, stesse indicazioni per Intesa che anzi forse vorrebbe aumentare il dividendo ai propri soci. E, insomma, per chi effettivamente fa un po' di fatica, nonostante le difficoltà recenti enormi, a guardare al di fuori del confine domestico, voi che tipo di suggerimenti avete da dare in un momento ancora molto caldo appunto per l'equity, per il settore azionario? Come è bene guardare anche la borsa italiana? Ma guarda, ci sono tantissimi titoli che offrono rendimenti unicamente legati al dividendo assolutamente più alti rispetto ai titoli di Stato, quindi già da questo punto di vista è chiaro che investendo in un titolo azionario il rischio è maggiore, quindi il solito rischio rendimento, ma il supplemento di rendimento rispetto al rischio è di gran lunga migliore rispetto a un titolo di Stato sia pure 5 o 10 anni. Non solo, ma nel momento in cui nel medio periodo, stiamo sempre parlando di quello, 2-3 anni, la situazione sicuramente sarà più serena rispetto a quella che sarà oggi, io lucro anche la differenza di prezzo, quindi se compro a 1 e vendo a 3 fra 3 anni, non solo percepisco annualmente i dividendi ad un tasso molto più elevato rispetto ai titoli di Stato, ma il mio rendimento complessivo fa parte anche della differenza di prezzo, quindi è chiaro che però non bisogna farsi prendere dal panico in momenti come quello attuale, dove la volatilità è assolutamente elevata rispetto alla sua media storica e dove capisco che si possa sicuramente essere disorientati, ma nel momento in cui ho comprato un titolo, da un punto di vista rendimento del dividendo mi dà l'8-9-10%, su quello sono tranquillo, so che il business, perché lo conosco, è un business diciamo tranquillo anche quello, Enel, Terna, eccetera eccetera, e non ho motivo di ritenere che da qui a 2-3 anni, il famoso medio periodo, il prezzo rispetto a quello al quale ho comprato non possa essere più alto e quindi anche il mio rendimento complessivo molto più elevato rispetto al classico titolo di Stato. Tralasciando ancora una volta il settore bancario che sembra davvero, anzi non sembra, vive assolutamente di vita propria, le chiedo, guardando agli altri settori, Tognoli, quali ritiene che siano i comparti, non parliamo di singoli titoli perché non possiamo farlo, poi se lei vuole fare qualche esempio è assolutamente libero di farlo, quali sono appunto i settori che ritiene esageratamente sottovalutati in questo momento, mantenendo il nostro campo di osservazione a Piazza Affari? Allora, non ci sono settori, nel senso, come dicevo prima, non c'è un movimento corale di un settore che va bene o che va male, ci sono titoli. Quali sono questi titoli? Devono avere 2-3 caratteristiche fondamentali. La prima, titoli il cui business sia internazionale, quindi non solo Core Europe, ma Stati Uniti, paesi emergenti, Far East, Cina, India, eccetera. Quindi titoli che il cui fatturato è rappresentato in gran parte da export. Due, titoli che operano in un settore, anche se non in forte crescita, comunque mediamente in crescita, sempre a livello internazionale. Tre, titoli che continuino a produrre cassa e che l'abbiano prodotta negli ultimi 2-3 anni. Quattro, se stiamo parlando di piccole e medie imprese, management, come dicevo prima, quindi vai a vedere qual è che cosa ha fatto il management negli ultimi 2-3 anni di fronte alla situazione economica che cambiava, in che modo ha reagito, ha esportato, non ha esportato, è andato verso paesi emergenti, non l'ha fatto. Ecco, questo mix di caratteristiche, indipendentemente dal settore, perché ci sono titoli all'interno di un settore che vanno bene e che vanno male, ma quindi qual è l'elemento differenziante? È proprio il management. Quindi vatti a vedere questo mix di caratteristiche, se ci sono tutte contemporaneamente, allora si può ragionevolmente star certi che il rendimento complessivo di cui parlavo prima, differenza di prezzo più rendimento del dividendo, sempre nel medio periodo, sarà sicuramente importante. Interessante. Questa di Alberto da Bologna non volevo perderla a tutti i costi. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei proprio si è arrabbiato alla notizia del comportamento di Shell? Ma sì, assolutamente, è una cosa incredibile. Io non so che percentuale del loro fatturato faccio in Europa, ma a parte che sono una compagnia anglo-olandese, mi sembra di capire. Sì, sì, sì. Ecco. E quindi, per insomma, invece che esserci grati per l'impegno dell'Europa, mi sembra una cosa incredibile e invito gli ascoltatori a non fare mai più benzina alla Shell. Un boicottaggio ai distributori di benzina Shell, Alberto. Io, che tra l'altro sono tra i più cari. Guardi, qua è una bella gara per la verità, poi tra l'altro. Sì, sì, no, ha ragione. A parità preferisco magari chi soffre con noi e rischia con noi, diciamo. Riappropriamoci dei nostri diritti di consumatori, anche noi possiamo fare qualcosa appunto per arginare gli effetti di questa crisi, non possiamo solamente sempre solo subirne tutte le conseguenze, tutti i provvedimenti. Alberto, la ringrazio per il suo intervento. Caironi, hai sentito che ascoltatori molto attenti. Sì, non ha tutti i torti però, amici, ma insomma noi siamo noi che gli produciamo il fatturato, questo che cosa fa? Se ne vanno da noi, allora perché non chiudono anche tutti quanti distributori di benzina, visto che per la verità anche in Italia ci hanno guadagnato etichetta tinta, come dico io sempre. Senta, c'era un ascoltatore che voleva chiedere qualche commento e qualche nostra analisi sul tema del rapporto di cambio euro-dollaro, poi non riusciamo a mantenerlo in collegamento perché abbiamo qualche difficoltà, ma io mi faccio portavoce di questa sua istanza. Che previsioni possiamo fare? L'euro sul dollaro ha avuto anche questo chiaramente una discreta volatilità nell'ultima settimana, è piombato da 1,21 a 1,24 con una facilità, addirittura facendo questi movimenti vistosissimi nel giro di poche ore in una singola giornata. È un rapporto di cambio corretto in questo momento? Rappresenta la situazione, diciamo, attuale in, idealmente? In linea generale direi di sì, in quanto le due politiche monetarie, sia per quanto riguarda la Fed che la BCE, ormai sono abbastanza allineate. Mm-hmm. Quindi in linea di massima allineate e continuare in un modo o in un altro a inondare il mercato. Sì, diciamo che ci sono ancora degli spazi per la BCE di scendere magari ancora di un quarto di punto. Ah, sì? Sui tassi. Vedi tassi anche a mezzo punto percentuale? Anche, potrebbe esserci, anche perché dicevamo prima che la situazione recessiva non è assolutamente risolta, anzi avremo dei mesi avanti ancora molto difficili, quindi c'è lo spazio ancora per scendere. E dall'altra parte però vediamo una Fed che sta preparando anche lei con molta attenzione un possibile nuovo quantitative easing. Nel senso che potrebbe esserci necessità. Ovviamente dicevamo prima il discorso del lavoro diventerà centrale, e poi ci sono le elezioni e poi vedremo anche il tema l'anno prossimo sul discorso del fiscal cliff. Cioè ricorda che cos'è il problema grosso di scadenze che abbiamo di alcune agevolazioni fiscali o comunque diciamo di una revisione di quelle che sono le agevolazioni fiscali che oggi il sistema americano offre a ceto medio, diciamo, e alle aziende, e quindi questo andrà a essere rivisto completamente. Questo nel modo in cui dovranno esserci dei conti anche qui sostenibili. Non solo l'Europa dovrà avere un bilancio sostenibile, ma anche l'America. Quindi in linea di massima questo è un po' quello che vediamo, un equilibrio che ormai si sta assestando intorno a questi livelli. Poi chiaramente c'è un po' di volatilità e quindi, però non vedo più una preoccupazione molto molto elevata sull'euro dal momento in cui anche il presidente Draghi ha detto questa diciamo irreversibilità sull'euro, è stata una parola estremamente forte sul mercato. A livello di valute aggiungerei solo due commenti velocissimi. Il primo è che comunque rimangono interessanti a livello di asset allocation le valute dei paesi emergenti. con una serie di distinguo. Sarebbe stata la mia ultima domanda, ci faccio fare il consueto giro nel mappamondo. Però in linea di massima questo è un discorso. Il secondo elemento è che la stabilità che vediamo oggi nell'oro ci dà un segnale importante. Quindi vuol dire che di fatto l'oro, che era diventato sempre un po' il nostro indicatore insieme agli spread delle tensioni delle politiche, diciamo, internazionali, questa abbastanza stabilità io la vedo, la leggo come una sostanziale fattore positivo in termini di attese sulle valute internazionali. Non abbiamo più tempo per cominciare a aprire la parentesi sui mercati emergenti. Magari a settembre, Caroni, facciamo una bella trasmissione su questo, per capire, magari in un'ottica ancora di incertezza sui mercati che più conosciamo, quello europeo appunto e quello americano, se dovessero ancora essere così indecisi. Vero. Vediamo un po' come continuare a proteggere invece i nostri portafogli, diversificando ancora di più in altre aree del paese. Per adesso grazie per essere stato con noi, Caironi, buone vacanze. Grazie anche voi. Buone vacanze anche ad Antonio Tognoli, arrivederci, a risentirci presto. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Noi abbiamo terminato Salvadanaio, grazie a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Matteo Comes che è tornato al suo posto in assistenza tecnica, e noi naturalmente ritorniamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.